Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, grazie in regia Roberto Scaltritti e in redazione a Laura Vanossi. Sono le 11.09, saremo insieme fino a mezzogiorno. Oggi parliamo di un evento che succede all'improvviso, a freddo, in una condizione direi di totale benessere, senza alcuna circostanza che possa giustificarne l'insorgenza. Può capitare a tutti, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo: al cinema, in treno, al lavoro, a tavola con gli amici, in palestra o mentre facciamo shopping. Il cuore incomincia a battere all'impazzata, rimbomba in tutto il corpo, il respiro si fa affannoso, sembra di soffocare, le mani sono ghiacciate ma si suda, si ha la sensazione di stare per svenire o addirittura di morire. Tutto dura pochi minuti, ma chi li ha vissuti li descrive come infiniti. E dopo la vita per alcuni cambia, si ha paura della paura, paura di avere paura. Oggi parliamo di attacchi di panico, un disturbo che colpisce moltissime persone, che sembra destinato a crescere nei prossimi anni. Oggi lo affronteremo con due esperti: il professor Perna, che è direttore associato del Master Internazionale sulle Neuroscienze Emotive dell'Università di Maastricht, ma anche primario presso la Casa di Cura San Benedetto ad Albese con Cassano. Professor Perna, buongiorno e bentornato. Buongiorno Nicoletta e tutti gli ascoltatori. Accanto al professor Perna, che è psichiatra, non a caso, abbiamo invitato la dottoressa Monica Piccinni. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti. Psicologa cognitivo-comportamentale presso il Centro Europeo per i Disturbi d'Ansia ed Emotivi a Milano. Esatto. Quindi due figure che oggi collaborano, ma dovrebbero essere così anche nella pratica, quindi non in rivalità ma in sinergia per affrontare un problema che sta diventando sempre più serio, anche considerati i numeri, professor Perna. Questa è una cosa molto importante, perché la collaborazione fra lo psichiatra medico e lo psicologo psicoterapeuta è fondamentale. Il problema, in due parole, è quello di utilizzare strumenti che siano validati scientificamente. Quindi la lotta non è tanto tra psichiatra, medico e psicologo, ma quanto tra chi usa strumenti validati scientificamente e chi non li usa. Quindi questo è un primo punto. Sul panico poi è fondamentale, perché abbiamo una componente biologica reale e una componente invece di risposta psicologica che va combattuta con armi differenti. Professore, il panico è una miscela di smarrimento e di terrore, ma dei sintomi fisici, in parte li abbiamo descritti, così marcati che chi li sperimenta pensa di morire, tanto che molte persone vanno al pronto soccorso pensando ad un infarto. Verissimo, possiamo dire che il panico è la malattia più medica, più fisica tra tutte quelle psichiatriche. Questo è molto importante, perché la confusione è spesso presente. Dobbiamo tenere conto di questi aspetti. Primo, può darsi che uno abbia un attacco di panico perché ha una condizione medica vera e propria, quindi lo psichiatra, il medico, deve fare una diagnosi attenta. Secondo punto, il fatto che il soggetto col panico è vero che non ha una malattia vera e propria, ma i suoi sistemi fisiologici sono più instabili. Quindi non è completamente vero dire che chi ha il panico è totalmente sano. È un po' più fragile su questi versanti. Dottoressa Piccinni, vengo subito da lei, perché chi sperimenta una paura così forte, anche se il professor Perna vedo già che vuole correggermi, perché no, è una paura molto molto più forte di quella tradizionale, forse non potremmo neanche descriverla come paura, perché rischiamo di fare una confusione. Due parole sono importanti. Stiamo attenti che la paura è una cosa e il panico è un'altra. La paura è un qualche cosa di buttato all'esterno. Io ho paura di qualcosa di esterno. Il panico invece è la paura di qualcosa di somatico, fisico, che mette in pericolo la nostra vita. Quindi sono due fenomeni qualitativamente diversi. Io posso essere Fantozzi e non avere gli attacchi di panico. Posso essere Rambo e avere un sacco di attacchi di panico. 800 24 00 24. Dottoressa, chi ne soffre, chi li ha sperimentati, si sente in colpa, inadeguato, con una marcia in meno. Il professor Perna ha detto: in realtà possiamo dire che sono persone un po' più fragili. Lei come psicologa, quale messaggio può darci? Allora, sicuramente possiamo dire che chi sperimenta per la prima volta un attacco di panico sicuramente inizia naturalmente a pensare di sé tutta una serie di naturalmente cose diciamo negative, quindi inizia a avere un concetto di sé naturalmente di incapace, di debolezza, no? Certo. Di incapacità, e proprio naturalmente su questo si instaurano delle false credenze nel soggetto, cioè dei pensieri diciamo disfunzionali, catastrofici, come appunto la paura di perdere il controllo, il fatto di poter essere pensato come pazzo, no? Quindi di entrare sì, nella categoria. Sì, perché si ha paura di morire o di impazzire. Esatto, esattamente. E naturalmente su questi pensieri disfunzionali, su queste false credenze, si instaura naturalmente un meccanismo difficile poi da modificare nel tempo, no? Perché nel lungo periodo purtroppo poi si mettono in atto una serie di comportamenti disfunzionali, tra cui l'evitamento, che è naturalmente un fattore di mantenimento sì. di questa patologia, che tende ad isolare naturalmente il soggetto, cioè tende naturalmente a metterlo come sotto una campana di vetro da se stesso naturalmente, certo. Perché il soggetto inizia ad evitare tutte le situazioni che ipoteticamente o anche solo potenzialmente potrebbero metterlo in situazione di pericolo. Professor Perna, ci sono tante persone che hanno sperimentato nel corso della loro vita un qualcosa di simile a quello che noi stiamo descrivendo, quindi all'attacco di panico. Persone che poi con il panico non hanno più assolutamente avuto a che fare. È possibile o può essere invece, deve essere considerato come un campanello d'allarme? Allora, è possibile, è sicuramente un campanello d'allarme, perché gli studi dicono che avere degli attacchi di panico predispone poi lo sviluppo di altre condizioni un po' più pesanti. Però è anche vero che nella popolazione generale almeno il 15%, se non il 20%, ha sperimentato degli attacchi sporadici, ma soltanto il 3-4% sviluppa il disturbo. Quindi capita che persone abbiano l'esperienza del panico. Questo non deve essere trattato se è un singolo attacco, poi passa naturalmente, certo. Solo se avviene a raffica e modifica il comportamento diventa un problema medico psicologico da curare. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde per raccontarci le vostre storie, chiarire i vostri dubbi. I nostri esperti sono a vostra disposizione, ma voglio farvi ascoltare la lettura che Giovanni Allevi, che abbiamo avuto, gli ascoltatori di Essere Benessere lo sanno, di recente proprio qua ai nostri microfoni, ci ha dato del panico. Il panico non è l'incontro con un vuoto paralizzante, ma è l'incontro con il nostro tutto, l'energia straordinaria che si sprigiona dentro ognuno di noi, che spesso ci fa paura. Io poi, dovendo affrontare il palco, il pianoforte, l'orchestra, ho sempre paura, ma è bello che sia così, è giusto avere paura. Siamo esseri umani, siamo imperfetti, siamo fragili, ma evviva l'umanità. Senti, Giovanni, allora, per scacciare la paura, tu quale brano consigli? Scacciare la paura o, come dici tu, apprezzare della paura il lato positivo, che è quello di farci affrontare la vita con coraggio, determinazione, dire ce la puoi fare. Abbiamo detto, che brano suggeriamo? Certo. Ma, sì, perché per me appunto vincere la paura significa anche avere la forza di buttarsi, no? Di buttarsi, vivere anche l'ebbrezza dell'insicurezza. Sono tutti elementi psicologici che io associo al brano Angelo Ribelle per orchestra sinfonica, perché io vorrei che l'angelo ribelle che dentro ognuno di noi prendesse il volo liberandosi dei legacci della quotidianità. È così. Qua c'è paura. Tutto uno svolazzare, un incrocio di ali. Ma sì, io cerco di essere nella musica così come non riesco ad essere nella vita quotidiana. Professor Perna, la musica può essere d'aiuto sicuramente. Che dice? Sicuramente sì, è d'aiuto non tanto per curare il disturbo di panico, quello importante, ma per dare quel rilassamento che è fondamentale per controllare quella che è la paura che nasce dal panico. Perché ricordiamoci che il panico è un evento patologico in se stesso, ma poi innesca una catena di paure, di ansie, di difese da parte dell'individuo, e in questo caso tutta una serie di tecniche di rilassamento. E la musica è una tecnica importante. La musica modifica il cervello, non è solo un ascoltare qualcosa di bello, ma qualcosa che cambia la nostra chimica, cambia il funzionamento mentale e può aiutare a rilassarsi. Certo, musicoterapia per il panico è un po' troppo. troppo. Certo, però come aiuto, un approccio integrato, sì. Diciamo così, noi parleremo naturalmente di cause. Abbiamo ormai in mano dei dati di ricerche molto interessanti che hanno permesso alla comunità scientifica di fare chiarezza. Vogliamo anche naturalmente anticiparvi i risultati più interessanti. Vogliamo parlare di approccio integrato. Per questo abbiamo uno psichiatra, abbiamo uno psicologo cognitivo comportamentale. Sentiremo anche il ruolo delle associazioni che tante volte aiutano, guidano le persone che rimangono smarrite a trovare la strada e quindi a farsi aiutare. Sono una sorta di ponte. Aspettiamo come sempre le vostre chiamate all'824-0024 e i vostri messaggi al 349-238-6666. Una mela al giorno. Ed ora ci colleghiamo con Focus Salute che si tiene a Milano. Oggi si parla di HIV, aumentano gli inconsapevoli, sempre più persone scoprono di essere sieropositive solo al momento della diagnosi di AIDS, ovvero in uno stadio di malattia molto avanzato. Infatti circa il 25% dei sieropositivi non sa di esserlo. Ne parliamo con il professor Adriano Lazzarin, che è direttore del Dipartimento di Malattie Infettive all'Istituto Scientifico San Raffaele di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. La premessa è corretta. Da, a fronte dei successi che la terapia antiretrovirale ha ottenuto, che porta a una negativizzazione della viremia nell'80% dei casi e una quasi normalizzazione delle risposte immunitarie, il problema vero che dà un po' di rammarico è che soltanto 3 su 4 sieropositivi arrivano oggi a farsi diagnosticare perché sia possibile trattarli. E su questo si è concentrata l'attenzione della comunità scientifica e anche delle istituzioni, perché il problema dell'emergenza del sommerso è il problema vero, cioè bisogna scoprire chi sono i sieropositivi, offrire loro il trattamento antiretrovirale, farli guarire e interrompere la catena della trasmissione dell'infezione, che involontariamente o inconsapevolmente i sieropositivi che non sanno di esserlo trasmettono. Ed è per questo che quest'anno la campagna di prevenzione, anche se sembra che l'offerta del test non rappresenti proprio uno strumento di prevenzione, invece vuole sottolineare questo aspetto. Conoscere è lo strumento indispensabile per prevenire la trasmissione dell'infezione e diventa l'offerta del test non soltanto un correttissimo strumento individuale per arrivare alla terapia, ma anche un mezzo per impedire, sapendolo, che i pazienti sieropositivi trasmettono l'infezione. Quindi è questo che stiamo cercando di fare. Con il Comune di Milano abbiamo pensato di intraprendere la strada dell'offerta di un test più semplice. Non è l'AIDS, ma è l'infezione da HIV quella che vogliamo cercare. Sdrammatizzare la risposta, perché il più dei soggetti della popolazione generale che si presentano per fare il test vengono negativi, cioè ma al massimo nelle esperienze che abbiamo avuto è l'1%. Il numero di persone che purtroppo conoscono lo stato di sieropositività. Professore, quindi puntiamo sul test proprio come prevenzione per evitare che la malattia si trasmetta. Professore, il messaggio è chiaro, quindi puntiamo sul test per prevenire la trasmissione dell'infezione. Ricordo che in occasione di Focus Salute il Comune di Milano appoggia questa iniziativa e il test sarà effettuabile davanti alla stazione centrale. Un progetto pilota che ci auguriamo venga anche accolto da altre realtà locali e quindi in altre città. Professor Lazzarin, io la saluto, la ringrazio per essere stato con noi, la lascio a Focus Salute. Buona giornata. Anche a lei, buongiorno. Pronto soccorso. Eccoci, torniamo a parlare di attacchi di panico. Perché ne parliamo spesso? Non perché vogliamo tormentarvi, ma perché la ricerca sugli attacchi di panico continua. E, professor Perna, ci sono sempre delle buone notizie, si fa sempre più luce. E questo è importante perché, considerando che questo disturbo viene spesso taciuto ed è veramente soffocato da tantissimi pregiudizi, pensate che ci sono persone che non escono più di casa, familiari disperati che non sanno a chi rivolgersi, allora io credo che sia giusto dare un po' di colpi di piccone a questi pregiudizi che, come dei muri spessissimi, ingabbiano le persone e anche i familiari. Professor Perna. Allora, partiamo da due. Sono... No, è vero, sono due considerazioni. Primo, se ne parla molto e se ne continua a parlare perché le persone che hanno questo disturbo sono una quantità enorme, cioè parliamo di milioni di persone. La cosa peggiore è che, nonostante oggi esistano studi che dimostrano l'efficacia di alcune cure, abbiamo troppe persone che si affidano a terapie non validate scientificamente e quindi hanno la malattia cronicamente, e questo vuol dire perdere anni di vita. Devo dire che condivido la tua verve, che la mia rabbia quotidiana è vedere persone che perdono anni di vita quando basterebbe applicare protocolli semplici. Prima considerazione. Secondo punto, la scienza va avanti. Quello che sappiamo oggi diventa già passato domani. E la cosa importante nel panico è che esistono tanti studi che stanno valutando anche delle tecniche terapeutiche nuove. Per esempio la terapia respiratoria antipanico è un qualche cosa di molto promettente. Io non sto parlando di tecniche che vengono vendute, tipo meditazione oppure altre persone. Parlo di tecniche specialistiche, specifiche, studiate da centri anche americani. Questi sono in corso e danno risultati brillanti. Un'altra tecnica importante è quella della cosiddetta riabilitazione psicovestibolare. Cosa vuol dire? Vuol dire che le persone hanno spesso quel senso di sbandamento e capogiro. Sì. Però sembra che esista la possibilità, tramite un connubio fra gli otorini e gli psichiatri, di fornire uno strumento per dare stabilità alle persone. La novità vera, forse, è quello che è il dato più importante, è che nel panico non è vero che esiste un falso allarme, ma i sistemi fisiologici, respiratori, cardiaci, di equilibrio sono leggermente squilibrati, e quindi quando noi curiamo queste persone non dobbiamo pensare che non abbiano nulla, hanno qualcosa, e le cure che utilizziamo tendono a dare stabilità. L'altro elemento è il rafforzamento anche di tecniche psicologiche che sono sempre più capaci di sbloccare le fobie e le paure in queste persone. Io vorrei dare subito la parola a Mario, che ci chiama da Piacenza. Mario, benvenuto, grazie. Buongiorno, dottoressa Carbone. Aiuto, le chiedo aiuto. Allora, praticamente cosa mi è successo? Sì. Io sono, come dicevo alla centrale inizio, io sono andato ad abitare da solo circa 6 mesi fa, dopo la metà di aprile. Mm. Una mattina ero qua sul lavoro, dove la sto chiamando adesso, tranquillo, sereno. A un certo punto mi sono sentito come se qualcuno mi avesse sparato allo stomaco. Sì. Un forte peso sulla gabbia tracica, al cuore, e poi questo continuo affanno, iperventilazione, e poi non riuscivo a stare fermo. Certo. E continuavo a camminare avanti e indietro, e niente, mi è venuto a prendere l'ambulanza perché pensavo che fosse un infarto, perché avevo anche il formicolio al braccio sinistro. No, e Mario, meglio andare una volta in più al pronto soccorso. E poi si è spostato al braccio destro e poi è tornato quello sinistro. E niente, mi hanno portato al pronto soccorso, mi hanno fatto un'iniezione di valium, mi sono fatto una pennichella di 2 o 3 ore, sono tornato al lavoro, ho preso lo scooter e sono andato a casa. Ed ero molto, mi scusi il termine, ero incoglionito. Però ancora oggi, sì, io non ho più questi attacchi fortissimi di andare al pronto soccorso. Proprio ieri ne ho avuto uno, ma non da andare al pronto soccorso. Cioè, ce li ho frequentemente, ma un po' diciamo sono sopportabili. Sì. Quelli un poco meno sopportabili succedono una volta ogni tanto. Premetto che sono una persona un po' nervosa, un po' agitata. Certo, lo siamo. Una volta io ho voluto così prendere un po' in giro questo disturbo, che poi non so se è un disturbo psicosomatico o un attacco di panico, poi volevo chiedere la differenza. Io sono andato in palestra. Mm. Al momento mi è passato. Dopo, finita la palestra, dopo circa un'ora mi è ricominciato. Allora Mario, noi adesso facciamo così, per dare modo ai nostri due specialisti di analizzare il caso di Mario, che leggo già anche descritto in numerosi messaggi. Quindi facciamo così, Mario resta con noi. Saluto anche Ilaria, che ci chiama da Napoli, che è già al telefono. Ilaria, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Oggi parliamo di attacchi di panico per aiutarci a non averne paura, perché è un disturbo che deve essere affrontato e può essere curato. Oggi abbiamo il professor Perna, che si occupa di noi come psichiatra, abbiamo la dottoressa Monica Piccinni, che è una psicologa cognitivo-comportamentale, quindi ci affidiamo nelle loro mani, leggiamo insieme le ricerche, quelle più nuove, ma cerchiamo di dare anche dei consigli pratici. E io vorrei subito tornare al caso di Mario. Ha avuto un attacco di panico, è finito in pronto soccorso, gli hanno fatto un'iniezione di valium, è tornata a casa, lui diceva un po' stordito, adesso ha degli attacchini, professor Perna, che lui riesce a gestire. Professore. Io credo che gli attacchini siano la cosa peggiore possibile per chi ha il panico, perché non sono abbastanza forti da chiedere e urlare aiuto, ma sono sufficienti per rovinare la vita. Quindi il vero problema nel panico, anche quando vengono curati farmacologicamente o con una psicoterapia cognitiva e comportamentale, è che troppo spesso vengono lasciati piccoli attacchi di panico ogni tanto. Ovviamente questo vuol dire che il panico dice: guarda che sono qui, la prossima volta ti piglio. E quindi cosa fa la persona? Continua a difendersi. E difendersi vuol dire sacrificare la propria libertà. Quindi gli attacchi piccoli vanno combattuti, non vanno trascurati. Alcune persone possono avere attacchi ogni tanto e non sviluppare paure e fobie. Quindi come, non avere si fa una... come si fa a capire che quello che ho provo non avrà del, non mi farà sviluppare paure e fobie? Beh, direi che va analizzata la vita. Se la vita prosegue con la libertà di movimento, con la possibilità di scegliere liberamente, bene. Se siamo condizionati oppure se altri ci dicono che siamo cambiati, è bene capirlo. Questo perché non sempre noi siamo in grado di capire quanto siamo condizionati e quindi ci vuole aiuto anche dello psicologo. Dottoressa, io vengo subito a chiederle aiuto. Ho un attacco di panico, mi batte il cuore, mi manca il fiato, penso di morire. Cosa faccio? Ci sono anche degli strumenti, ci sono anche delle cose che possono essere fatte al momento da chi soffre di, proprio sente questi sintomi sulla pelle, per un po' respirare, attutire un po' questa morsa. Che cosa si fa? Ecco, benissimo, ha detto anche uno dei termini naturalmente più che c'entrano esattamente con quello che dobbiamo dire. Come faccio a respirare esattamente? Sì. Allora, innanzitutto possiamo dire che la prima cosa in assoluto da fare e che si apprende proprio in terapia attraverso la terapia cognitivo-comportamentale è proprio apprendere a calmarsi attraverso naturalmente delle tecniche di gestione dell'ansia che si naturalmente acquisiscono facendo un percorso terapeutico. Queste tecniche vanno da naturalmente la tecnica per esempio del controllo del respiro come prima cosa, quindi tecniche respiratorie che vengono insegnate in terapia dallo psicologo. Ma si respira a lungo? Allora, è una tecnica di respirazione lenta, sì, naturalmente, che prevede il rimonitorare in qualche modo, rientrare in contatto col proprio respiro e quindi permettere al proprio fisico di riequilibrare quegli squilibri, naturalmente anche biochimici, che si creano a causa dell'iperventilazione, che naturalmente è stata associata in termini scientifici, quindi biologici, all'attacco di panico vero e proprio. Quindi come prima strategia che viene proprio insegnata è veramente il riprendere in mano la propria situazione psicofisiologica attraverso naturalmente il riequilibrio del respiro. Professor Perna, io ricordo che un giorno in una nostra puntata lei aveva detto soffiate dentro un sacchetto. Beh, il concetto è, siccome è un allarme eccessivo, quello che fa il corpo è esplodere al contrario, inizia a iperventilare. Il problema è che l'iperventilazione, cioè ansimare troppo, poi produce altri sintomi che spaventano la persona, che continua a iperventilare. Quindi un circolo vizioso che noi riusciamo, noi lo tagliamo come? Respirando nel sacchetto, perché respiriamo la nostra aria ed evitiamo che si vada in questo stato fisico sbagliato. Mi raccomando, teniamoci a mente queste indicazioni in caso di bisogno. Intanto a Mario, quindi, professor Perna, lei il messaggio che il vuole messaggio dare è non lo sottovaluta assolutamente. Non cerchi di pensare che basterà la buona volontà del tempo, chiede aiuto. Siamo in tanti, siamo specializzati nella psichiatria, nella psicologia e abbiamo la capacità di tirare fuori in pochi mesi dalla situazione. Una cosa ti dico, respiriamo in un sacchetto di carta, non di plastica. Beh, mi certo, raccomando. Certo, ha fatto bene a ricordare. Ilaria ci chiama da Napoli, ma Ilaria anche ci ha scritto già una bellissima email. Ilaria, benvenuta e grazie. Buongiorno, grazie a voi. Ilaria, allora... Io ho sofferto di un solo attacco di panico che mi ha provocato la paura di morire, la paura che potesse ritornare, la paura di poter star male e mi ha bloccato la vita, nel senso che io non sono più uscita di casa, il posto più sicuro della mia casa era il mio divano, la mattina mi svegliavo, mi sedevo sul divano e non volevo sapere niente, non riuscivo nemmeno ad andare in bagno per paura di sentirmi male nel tragitto da una stanza all'altra. Ho lasciato il lavoro, ho lasciato le amicizie, ho lasciato, mi sono spenta, ho chiuso la vita, no? Ho spento la vita e mi sono fermata sul divano per la paura di stare male, di morire, di un altro attacco di panico. E a questo si sono aggiunti comunque i sintomi del tremore, dell'ansia, la paura di svenire, sensazioni di svenimento, sensazioni molto strane, che mi hanno veramente distrutta. Però per fortuna ho cercato subito un aiuto psicologico e sono 6 mesi che seguo una terapia cognitivo-comportamentale. E è stata molto dura perché poi non ho voluto medicine, e questo è stata diciamo una mia richiesta, perché c'è sempre un po' paura, no, di prendere degli psicofarmaci, e quindi mi sono un po' curata con i fiori di Bach e comunque è stato un lavoro molto più difficile da affrontare, certo, perché piano piano ho dovuto da sola sperimentare che potevo uscire fuori di casa senza che mi succedesse niente, che potevo scendere. La terapia cognitivo-comportamentale è stata questa stampella che le ha permesso di varcare di nuovo la porta di casa sua e riaccendere la vita. Professor Perna, Ilaria sottolinea un aspetto cruciale che noi abbiamo affrontato tante volte, e ringrazio in modo particolare Ilaria, che dice: io non volevo prendere farmaci. Lei lo sa bene perché è il suo lavoro, che farmaci, quando noi prendiamo con una certa accettazione i farmaci per abbassare la pressione, i farmaci per il colesterolo, per il mal di testa, quando dobbiamo prendere dei farmaci che noi capiamo che possono in qualche modo cambiarci la testa, lì inizia veramente la paura, il blocco, il rifiuto. A volte però questo è un rifiuto che ci costa caro, professor Perna. Allora, perché c'è questo stigma verso i farmaci? Per due motivi. Uno, perché si pensa ai farmaci del passato. Effettivamente i farmaci del passato erano molto sedativi, ce n'erano pochi, ma un po' come dire i tetti un tempo erano pieni di amianto, ma non possiamo paragonare i tetti di ieri con quelli di oggi, quindi i farmaci di oggi sono differenti. Secondo punto è che purtroppo spesso vengono dati cocktail di farmaci, quindi c'è un'abitudine anche sbagliata da parte di colleghi nel riempire di sedativi o di farmaci. Detto ciò, il farmaco è assolutamente essenziale quando si hanno attacchi di panico ripetuti. È importante sottolinearlo perché, per esempio, la nostra ascoltatrice Ilaria ha avuto un attacco di panico, così lo descrivere, e poi ha manifestato delle fobie. In quel caso la psicoterapia cognitivo-comportamentale va bene, può bastare anche da sola. Se avete più attacchi di panico, il rischio è quello di controllare meglio i sintomi ma non uscirne fuori. Ricordate che il diritto vostro è il 100% della libertà, non l'80%, e si può raggiungere. Dottoressa. Sì, io vorrei sottolineare questo aspetto molto importante, naturalmente detto dal professor Perna, che è l'integrazione dell'intervento, nel senso che come psicologa, naturalmente non potendo naturalmente dare farmaci, ma è la strada che ho scelto, ho capito con il tempo e naturalmente attraverso le ricerche effettuate che l'approccio migliore è l'approccio integrato, specialmente quando la persona nella prima fase, diciamo, del percorso non riesce a mettere in atto da sola e a tirar fuori da sola quelle risorse, certo, che servono nella terapia stessa psicologica, quindi cognitivo-comportamentale, è uno sblocco. Successivamente, insieme al farmaco naturalmente identificato dallo specialista, quindi dallo psichiatra, in questo caso ci tengo a dirlo, dallo psichiatra, sì, e non da altri medici come il medico curante o da altro, si invece inizia il percorso terapeutico, che come naturalmente percorso iniziale ha intanto una psicoeducazione su che cos'è il disturbo, perché spesso noi ne abbiamo paura perché non lo conosciamo, non conosciamo, certo, i suoi effetti. Dopodiché naturalmente si mettono in atto proprio delle strategie, quindi si dà al soggetto gli strumenti per venire fuori da questo suo, da questa sua gabbia, da questo suo, naturalmente, da questa sua paura. E tante volte anche noi abbiamo bisogno di essere aiutati, essere accompagnati. Abbiamo visto, abbiamo così sentito dalle testimonianze che c'è un grande smarrimento, una paura di rimanere sole. Allora io saluto Emanuela Clivio, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Emanuela è qui come volontaria di Itaca. Itaca è un'associazione di cui abbiamo parlato tante volte, che volentieri torno a ripresentarla, Radio 24, perché fa da 10 anni un lavoro magnifico, si va da ponte con le persone che hanno disturbi psichici e quindi aiuta non solo i pazienti ma anche i loro familiari, mettendo a disposizione tanta competenza. Emanuela. Eccomi qua, sì, ho sentito, è molto interessante quelli che sono i punti di vista naturalmente dei medici o delle parti curanti. Ma con te, Emanuela, parleremo dell'aiuto che può dare un'associazione. Eccoci, siamo tornati insieme. Emanuela. eccomi qua. Allora, come un'associazione come Itaca, io ho scelto Itaca perché la seguo da anni, 10 anni, compie tra l'altro quest'anno, ma ce ne sono anche altre. Itaca ha messo a disposizione, dobbiamo spegnere un cellulare forse. Itaca tra l'altro ha messo a disposizione un numero verde che voglio subito darvi, 827 42 74. Emanuela, che cosa succede a Itaca? Che aiuto date? Sì, dunque, allora quello che capita a noi è che le persone si rivolgono totalmente identificate con il loro disturbo a noi, cioè intendo, piene di paura e piene di vergogna. Non sanno assolutamente che cosa sta succedendo, hanno paura di impazzire, paura di morire e vergogna per aver perso il controllo della loro vita si rivolgono a un'associazione di volontariato perché sentono questa come un possibile luogo di accoglienza. Li spaventa meno, certo, che rivolgersi direttamente a uno specialista. Allora, cosa facciamo noi? Noi abbiamo questo front desk che è il nostro linea d'ascolto, dove i nostri volontari, assolutamente preparati e formati dai nostri corsi di formazione, ascoltano e possono prima di tutto appunto far sentire che non si è soli, che non si è giudicati e che comunque questo è un problema che è condiviso purtroppo da molte persone. Basti pensare che su 15.000 telefonate che noi riceviamo all'anno, il 40% può essere ricondotto a un disturbo di attacco di panico. Quindi insomma sono molte le persone che hanno questo bisogno. E poi cosa facciamo? Dunque, noi a livello nazionale gestiamo una banca dati di tutto quello che sono i centri pubblici, no? Che si occupano delle problematiche inerenti ai disturbi mentali. Sì. E per quanto riguarda quindi questo possiamo intanto farlo. Questa è già una buona cosa, date delle indicazioni orientate. Quindi accompagniamo, diciamo accogliamo. Sì. E orientiamo la persona. Sì. Dove è possibile e dove il fatto di essere residenti lo permette? Lo permette, noi siamo anche in grado di sostenere queste persone ad andarci, perché non è detto che un numero di telefono di un CPS piuttosto che di un centro possa essere immediatamente utilizzabile dalla persona. Può darsi che ci sia bisogno di un percorso di rassicurazione, di magnifico accompagnamento. Sì, no, io pensavo al lavoro dei volontari. Noi abbiamo dedicato ai volontari una puntata, io devo dire che proprio grazie ai volontari, e questo ti fanno in qualche modo rappacificare con la vita. Emanuela Clivio, grazie per essere stata con noi. Ricordo il numero di Itaca, 827 42 74, se non avete tempo di scriverlo lo trovate sul nostro sito oppure riascoltando la puntata. Emanuela, grazie. Grazie a voi e buon lavoro. Allora, ci sono tantissimi messaggi a cui vorrei dare una risposta. Ne leggo uno. Sono un arbitro. Prima dell'inizio di una gara ho dei colpi di tosse con atti di vomito. Appena inizio ad arbitrare non più. Che cosa fare? Può essere un attacco di panico mascherato? Forse un attacco di panico no. Sicuramente ci dice che prima di affrontare qualcosa di importante noi ci carichiamo. E questo caricarci implica avere una serie di malessere. Esseri che però poi quando uno agisce bene, quindi se l'arbitro poi fa bene il suo dovere vuol dire che questo caricarsi gli serve. E allora quindi l'invito di oggi in questa trasmissione in cui abbiamo cercato di fare luce sulle cause anche biologiche dell'attacco di panico, abbiamo parlato di terapia, abbiamo parlato dell'importanza dell'integrazione di più specialisti, il professor Perna tirava in ballo anche gli otorini. Certo. Allora io direi, professor Perna, faccio un invito, non abbiate paura dell'attacco di panico, rivolgetevi, muovetevi, se non riuscite a farlo voi permettete che lo facciano per voi i vostri familiari. Professor Perna. L'invito è uno, dal panico si può uscire al 100% e la libertà è un diritto di tutti, per cui non permettete che la vostra paura o chi vi sta accanto non vi permetta di ritornare a essere liberi. Noi ci siamo in tanti, studiamo, parlo di colleghi psichiatri, psicologi che abbiamo in giro per l'Italia, affidatevi. E allora noi vorrei ancora affidarmi al tempo a disposizione dei nostri esperti per parlare della giornata contro la violenza sulle donne che si celebra oggi in tutto il mondo. In Italia, secondo dati Istat, una donna su tre tra i 16 e i 70 anni è stata almeno una volta vittima di violenza o maltrattamenti. Allora per far uscire dal silenzio questa situazione drammatica si celebra oggi la giornata internazionale che è proprio stata voluta dalle Nazioni Unite fin dal 1999. Allora, professor Perna, io vorrei chiederle, questa, la violenza sulle donne, qualche cosa scatta, a parte un condizionamento evidentemente sociale, una cultura nel non rispetto, ma lei che è uno psichiatra e la mente degli uomini e delle donne, il cervello l'ha indagato, che cosa scatta, che cosa succede, perché non mi risulta, non lo so, magari che negli animali si verifichino con una tale frequenza come con noi, tra noi umani, episodi di questo tipo? Beh, sicuramente il cervello maschile è più predisposto per azione del testosterone ad avere queste esplosioni. Direi che la cosa importante è che ci deve essere una prevenzione e una promozione di un comportamento diverso, perché poi quando esplodono, esplodono. Quindi... E noi vogliamo parlarne con la dottoressa Alessandra Kusterman, che è responsabile del pronto soccorso violenza sulle donne della Mangiagalli di Milano. Dottoressa, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Dottoressa, io vorrei chiudere questa puntata proprio con lei, che è sul campo, che il risultato della violenza lo vede e lo tocca sul corpo delle donne. Allora, credo che al netto del testosterone di cui parlava il collega, i comportamenti violenti degli uomini sulle donne rientrano nella storia dell'umanità, ma che questa storia dovrebbe essere modificata, certo, dalla cultura. Certo. Quindi è evidente che non subire violenza è un diritto delle donne e degli uomini, non è un diritto quindi solo al femminile, e che molte donne che vengono violate o maltrattate psicologicamente, economicamente o fisicamente dai loro partner o da altri uomini hanno una sofferenza che portano negli anni e che si riflette anche nei figli. Quindi io credo che molte delle idee che le donne hanno, che per salvaguardare la vita familiare, per salvaguardare un padre per i loro figli, tollerano per anni violenze da parte del partner, sia fondamentalmente sbagliata. I figli che vivono in un ambiente violento, che crescono con un padre che non rispetta la madre, sono dei figli che avranno dei problemi nel loro rapporto con le altre donne e che potranno imparare e penseranno da adulti che la donna non è niente. Dottoressa Kusterman, io la invito ad una puntata in cui parleremo proprio di violenza sulle donne e di violenza. Intanto io la ringrazio per essere stata con noi, per il suo lavoro. Grazie alla dottoressa Kusterman, grazie alla dottoressa Piccinin, grazie al professor Perna. Io vi aspetto domani dopo il GR delle 11. Buona giornata. Essere e benessere.